Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, primi casi in Nigeria e Olanda, annullato anche il salone dell'auto di Ginevra. Il capo dello Stato Mattarella intanto ringrazia i medici al lavoro e invita a mantenere l'unità e a non diffondere paure irrazionali. Siria, quasi 1 milione di profughi in fuga dalla zona di guerra con la Turchia. Erdogan minaccia di farli passare verso l'Europa. Ilva, il sindaco di Taranto chiede lo stop alle emissioni inquinanti entro 30 giorni, ma per i commissari l'ordinanza è illegittima. Palermo, nuovo omicidio di mafia, ucciso il fratello di un boss arrestato. Sport calcio, Inter e Roma passano il turno, tra poco i sorteggi per gli ottavi di Europa League. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. In apertura naturalmente gli aggiornamenti sul coronavirus con i dati che però arriveranno nel primo pomeriggio dopo che la consueta conferenza stampa di mezzogiorno è stata annullata. Ci sarà il punto alle 18. Cresce anche l'attesa per sapere se e dove da lunedì potranno riaprire le scuole. Intanto, tra le altre notizie, è stato annullato il salone dell'auto di Ginevra, ci sono casi di coronavirus anche in Africa, in Nigeria, in Olanda e poi è stato isolato il ceppo della versione italiana del coronavirus allo Spallanzani. Questo potrebbe fare dei passi in avanti alla ricerca anche per quanto riguarda il vaccino e i medicinali per curare l'epidemia nei casi più gravi. Ma dicevamo, facciamo il punto sui dati ufficiali che si hanno e anche sulle iniziative del governo con Alessandra Schepisi. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno Alessio. Innanzitutto governo al lavoro per fronteggiare l'emergenza coronavirus anche nelle sue ricadute economiche con misure straordinarie richieste, come sappiamo, ieri da imprese e sindacati. In arrivo un primo decreto per famiglie e imprese degli 11 comuni della cosiddetta zona rossa, per il quale dovrebbe essere convocato a breve un consiglio dei ministri. Tra queste la sospensione di 6 mesi delle bollette di acqua, energia e rifiuti, crediti di imposta, stop alle rate delle assicurazioni. In arrivo anche una stretta contro comportamenti scorretti e pratiche commerciali che approfittano di situazioni di allarme sociale. Nei prossimi giorni poi ci sarà un secondo decreto con misure di carattere generale per tutto il paese e per i settori produttivi più colpiti, turismo in primis. E sul turismo è in corso da questa mattina un tavolo al Ministero dei Beni Culturali con il ministro Franceschini e le principali associazioni di categoria. Intanto prove di ritorno alla normalità in molte regioni, dalla Lombardia al Veneto, al Piemonte, a Friuli, Venezia e Giulia, che puntano a riaprire le scuole con una decisione che verrà presa nelle prossime ore. Nelle Marche invece il TAR aveva sospeso l'ordinanza con cui la regione aveva disposto la chiusura, ma il governatore Ciriscioli ha emanato una nuova ordinanza di chiusura fino alle 24 di domani, dunque continua il braccio di ferro. Quanto ai dati, Alessio, siamo fermi a quelli di ieri perché la Protezione Civile li comunicherà solo una volta al giorno, quindi alle 18, e dunque 17 vittime, oltre 650 contagiati compresi gli asintomatici, ma cresce il numero dei guariti, 45, si rafforza l'ipotesi di un unico focolaio. Ci sono stati però ieri 51 ricoveri gravi, di cui 17 in terapia intensiva a Lodi, ha fatto sapere il governatore della Lombardia Fontana. A te. Grazie Alessandra Schepisi. E poco fa ha parlato anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha voluto ringraziare i medici che stanno lavorando in queste ore, poi ha invitato a mantenere l'unità e a non diffondere paure irrazionali. Avere fiducia nella scienza non vuol dire aver fiducia in qualcosa di astratto, vuol dire aver fiducia in noi stessi, nella nostra comunità. La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni. In questo giorno dedicato alle malattie rare dobbiamo sentire il dovere di rinnovare ringraziamento a chi sta operando con fatica, con sacrificio, con abnegazione per contrastare il pericolo del coronavirus. I medici, gli infermieri, il personale della protezione civile, i ricercatori, le donne e gli uomini delle forze armate e di quelle di polizia, tutti coloro che in qualche modo si trovano in prima linea. E intanto a livello globale sono 83.896 casi certificati, in qualche modo i dati ufficiali. I casi attivi su questo montante di numeri sono 44.202 e questo è un dato importante perché sono da giorni in diminuzione, appunto, i casi attivi di coronavirus nel mondo, che diminuisce l'intensità in Cina, aumentano invece i contagi nel resto del mondo. In discesa in Cina, i contagi da coronavirus aumentano nel mondo. Si conta un caso, il primo in Nigeria. Si tratta di un italiano che lavora nel paese africano, da poco rientrato da Milano, ora è ricoverato in buone condizioni a Lagos. Anche la Svizzera si scopre vulnerabile, annulla gli eventi con più di 1.000 persone, tra cui il salone dell'auto di Ginevra. Tra i contagiati, una quindicina, due bambini in Alta Engadina, italiani andati in Svizzera con la famiglia per le vacanze. I piccoli stanno bene, ma sono ricoverati per precauzione. In Francia, come atteso, in poche ore si è passati da 18 a 39 casi. L'ultimo riguarda una ragazza di Cannes ricoverata a Nizza che era rientrata da Milano. Provenienti dal nord Italia anche i due primi casi di contagio in Galles e in Irlanda del Nord. Nel Regno Unito contagiati anche due pazienti inglesi, ma questi ultimi avrebbero contratto il virus in Iran. Altri tre casi confermati in Austria, a Vienna. Si tratta di marito e moglie, da poco rientrati da una vacanza in Italia del Nord, e di un anziano ricoverato in gravi condizioni, il quale non aveva viaggiato all'estero. Anche in Olanda, Norvegia, Svezia, Lituania, Croazia, qualcuno dei pochi contagiati era stato nel nord Italia. Raddoppiati i casi in Germania, che salgono a 60, di questi la maggior parte in Renania settentrionale e Vestfalia. In totale sono 24 i contagiati in Spagna, anche se due malati in buone condizioni sono già stati dimessi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo le polemiche dei giorni scorsi, a dire la verità anche di queste ore, sui numero di casi, numero di contagi, le cifre che sono circolate, una possibile sovrastima, ma anche decisioni prese sull'onda dell'allarmismo da parte di alcuni amministratori, insomma, in seguito a tutto questo stiamo valutando una denuncia per procurato allarme, così Aldo Cursano, vicepresidente del FIPE, che raggruppa naturalmente ristoratori, negozi all'interno dell'associazione di categoria, lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Oggi il problema di fondo, il vero virus è la paura, il vero virus è l'allarmismo, che non è giustificato, e non a caso noi proprio da questo punto di vista stiamo proprio valutando come salvaguardare gli ingenti danni e la tenuta dell'intero sistema per un provocato allarme eccessivo che ha messo in ginocchio un intero modello produttivo e distributivo di beni e servizi. Quindi valutate una denuncia, un esposto per procurato allarme? Noi stiamo valutando, perché guardi la dimensione che stiamo noi subendo, stiamo arrivando all'80-90% di non presenze. E adesso andiamo all'estero con le altre notizie. Cominciamo dalla Siria, dove quasi 1 milione di persone sono in fuga dall'area di Idlib, controllata dai turchi e bombardata dall'esercito siriano. Sentiamo. La Turchia non fermerà i migranti siriani diretti verso l'Europa, che potrebbero essere quasi 1 milione. Dopo l'attacco aereo avvenuto nella notte di Damasco contro i turchi nella regione di Idlib, in cui sono morti almeno 33 soldati di Ankara, il presidente turco Erdogan ha convocato un consiglio di sicurezza straordinario per decidere la controffensiva. Sul campo è scattata stamattina, 329 fra vittime e feriti secondo fonti turche, 16 morti secondo fonti siriane. E in questa riunione è stato deciso anche di aprire i confini dell'Unione Europea ai migranti. Secondo fonti governative riportate da media locali, si tratterebbe della reazione al mancato sostegno che Ankara lamenta a Idlib. La comunità internazionale deve agire per proteggere i civili e imporre una no-fly zone, ha scritto su Twitter il capo della comunicazione di Ankara. Intanto quasi 1 milione di profughi sono fuggiti verso la Turchia, stanno premendo al confine greco e secondo fonti locali a decine si sono già radunati a Edirne e all'alba alcuni di loro hanno passato il confine con la Grecia, dove, lo sappiamo, sono già 42.000 i migranti ospitati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con la cronaca veniamo in Italia, in Sicilia, in provincia di Palermo. Nuovo omicidio di mafia a Belmonte Mezzagno. È stato ucciso il fratello di un boss. La vittima è Agostino Migliore, 45 anni, freddato con diversi colpi di arma da fuoco. In via Togliatti, il fratello della vittima, Giovanni, era stato arrestato nell'ambito dell'operazione antimafia Cupola 2.0. E ora ci occupiamo di nuovo dell'Ilva, perché dopo l'ordinanza del sindaco di Taranto che chiede lo stop alle emissioni inquinanti dell'ex Ilva entro 30 giorni minacciando la chiusura dello stabilimento, ebbene l'amministrazione straordinaria, i commissari in sostanza, replicano: l'ordinanza è illegittima. A meno di 24 ore dall'ordinanza del sindaco di Taranto contro ArcelorMittal è già scontro. Ilva in amministrazione straordinaria, che è proprietaria degli impianti, annuncia che impugnerà al TAR il provvedimento. Per i commissari di Ilva, illegittima, inappropriata e sproporzionata è l'ordinanza, poiché incide sull'esercizio di uno stabilimento di interesse strategico nazionale e su interessi che devono trovare la loro composizione e il loro bilanciamento. Per Ilva, l'ordinanza del sindaco di Taranto interviene in un momento in cui ci si sta prodigando per l'auspicata riconversione dello stabilimento nell'ambito del generale progetto per la città. L'ordinanza del sindaco Melucci è centrata sulle emissioni inquinanti del siderurgico. Il sindaco dà 30 giorni di tempo al gestore ArcelorMittal e alla proprietà Ilva per individuare e risolvere i problemi emissivi, altrimenti in 60 giorni dovranno fermare gli impianti, ed ora è probabile che anche ArcelorMittal impugni al TAR l'ordinanza. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto. E siamo quasi in chiusura, vogliamo però raccontarvi come si stanno muovendo i musei in questi tempi di coronavirus. Molti propongono, laddove sono state imposte le chiusure, mostre a porte chiuse da esplorare online in varie modalità. Adriana Fracchi ha chiesto in particolare al direttore del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, Fiorenzo Galli, che cosa stanno preparando. L'idea era già pronta, perché noi questo progetto volevamo portarlo, e così poi rimarrà passata la crisi, a lunedì quando il museo è chiuso, e quindi si tratta di o visite virtuali o attività di laboratorio o dialoghi sulla cronaca destinati a tutti i nostri visitatori, e che adesso abbiamo accelerato stante le situazioni che conosciamo bene, in modo tale che sia possibile mantenere appunto un dialogo attento con i nostri visitatori su temi diversi. Noi abbiamo già circa 1.200.000 visitatori individuali sul nostro sito internet e circa 80.000 followers sui social network. E poi, se questo consentirà ad altri che erano curiosi di venire da noi, cominciano a frequentarsi in modo virtuale, e questo farà nascere loro la curiosità di venirci a trovare fisicamente, ne saremo lieti. Siamo partiti ieri, quindi non possiamo avere ancora dei numeri incredibili. Ieri abbiamo avuto dei buoni accessi. Alla fine usciremo più forti di come siamo entrati in questa crisi. 13 e 12 minuti, facciamo un piccolo break, torniamo tra pochissimo. Se volete commentare le notizie di oggi potete farlo scrivendoci al 349-238-6666, ma anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, primi casi in Nigeria e Olanda, annullato anche il salone dell'auto di Ginevra. Il capo dello Stato Mattarella intanto ringrazia i medici al lavoro in queste ore, invita a mantenere l'unità e a non diffondere paure irrazionali. Siria, quasi 1 milione di profughi in fuga dalla zona di guerra con la Turchia, Erdogan minaccia di farli passare verso l'Europa. Ilva, il sindaco di Taranto chiede lo stop alle emissioni inquinanti entro 30 giorni, ma per i commissari l'ordinanza è illegittima. Sport, calcio, Roma e Inter passano il turno, tra poco i sorteggi per gli ottavi di Europa League. Di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Quelli che avete sentito sono i titoli, le principali notizie di oggi. Naturalmente stiamo ancora un po' aggiornandovi, informandovi sulla emergenza dell'influenza del coronavirus, e in attesa dei dati ufficiali che arriveranno alle 18 è stata annullata la conferenza stampa di mezzogiorno, nella quale fino a ieri venivano aggiornati i conteggi, i dati, i numeri che sono poi quelli da cui partire per fare tutte le analisi. Però proprio su questi numeri c'è stato una necessità di fare un chiarimento, perché il commissario per l'emergenza Borrelli fino ad oggi aveva aggiornato di giorno in giorno con i numeri dei casi positivi da coronavirus in Italia. Poi però si è scoperto che i tamponi effettuati necessitano di un ulteriore accertamento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e che quindi questi numeri potevano essere sovrastimati e quantomeno non erano ancora dati ufficiali. Confusione che ha alimentato confusione, come se ce ne fosse stato bisogno in questi giorni. Ne vogliamo parlare con Gianluca Dotti, giornalista, scientifico, collaboratore di Wired. Gianluca, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Alessio, grazie dell'invito. Allora, questa polemica, questa disputa sui numeri è abbastanza importante, perché entra proprio al cuore tra informazione, giornalismo, scienza, informazione scientifica e politica. Arriva tra l'altro dopo che nei giorni scorsi c'erano state delle altre polemiche tra il Presidente del Consiglio Conte e le regioni su come era stata gestita inizialmente l'emergenza nell'ospedale di Codogno, su cui ha aperto una inchiesta la Procura, ma anche su misure troppo timide inizialmente. Ricordiamo che una settimana fa il leader della Lega Salvini aveva chiesto di bloccare completamente le frontiere. I governatori del centro-nord poi sono entrati a gamba tesa con la chiusura delle scuole e delle università. Poi adesso qualcuno dice stiamo esagerando, c'è troppo allarmismo, allora si sta facendo tutti un passo indietro. Questo solo per ricapitolare come si arriva a questa disputa sui numeri. Ci spieghi i termini di questa doppia lettura dei dati che ci sono stati forniti fino ad oggi, Gianluca? Certo, ci proviamo. Allora, sicuramente i numeri che noi vediamo sono numeri che hanno bisogno in un certo senso di una doppia conferma, un po' come dovrebbe essere caro sempre al giornalismo. Cosa vuol dire doppia conferma nel caso di questi tamponi? Significa che una prima analisi viene fatta a livello regionale a partire dai casi sospetti e quei tamponi che risultano positivi vengono poi portati all'Istituto Superiore di Sanità, dove viene fatta una seconda verifica indipendente che trasforma i casi da diciamo positivi a un primo controllo a definitivamente positivi. Naturalmente qui il tema è che tra il controllo che avviene su scala regionale e quello poi che avviene a opera dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi a livello nazionale, passano alcune ore, perché pensiamo ad esempio a un tampone prelevato fisicamente a Lodi che poi debba essere analizzato diciamo dall'altra parte d'Italia. Questo significa che serve un tempo per il trasporto e un tempo materiale per eseguire l'analisi, che non è affatto banale. Gianluca, quindi possiamo dire, la prima cosa che possiamo dire è che i dati che sono stati forniti inizialmente, diciamo, non erano ufficiali, erano preufficiali, possiamo dire questo, credo di aver capito. E poi anche però che in un secondo momento ci stiamo però allineando, perché pare, dimmi se è corretto, che in realtà poi tutti i dati controllati, i tamponi controllati dall'Istituto Superiore di Sanità, siano delle conferme. Quindi al momento non c'è una discrasia vera in termini quantitativi, ma è solo uno sfasamento temporale? È così? Esattamente, esattamente come hai detto tu. Più che una differenza nei numeri finali, diciamo, stiamo un pochino precorrendo i tempi, cioè comunicare un caso come confermato quando invece è stata fatta solo la prima delle due analisi vuol dire comunicarlo con un po' di anticipo, che potrebbe essere qualche ora, un giorno, due giorni, rispetto a quando il caso è effettivamente confermato. Molto significativo è stato il dato nella conferenza stampa di ieri mattina a mezzogiorno, in cui c'era il bilancio fino a quel momento dei casi che erano stati poi confermati al secondo test ed era il 100%, 282 su 282. Sì. Senti Gianluca, un'altra cosa che voglio chiederti, tu non sei l'oracolo naturalmente, però di mestiere cerchi proprio di risalire alle fonti delle notizie scientifiche, di capire insomma qual è al momento l'opinione più affidabile, più certa, quali sono quello che sostengono gli esperti, gli istituti internazionali anche in questo caso. L'altra domanda che serpeggia riguarda il fatto che abbiamo più casi positivi in Italia, no? E rispetto per esempio dagli altri paesi europei. È stato detto che è perché abbiamo fatto più tamponi, più controlli che non gli altri paesi. È questa una spiegazione che corrisponde all'opinione degli esperti che tu hai, diciamo, potuto in qualche modo valutare in queste ore in rete e con i tuoi contatti, insomma? Allora, la doverosa premessa è che non c'è una linea unica e ci sono pareri a volte non perfettamente allineati. È ovvio che il numero che noi otteniamo e che poi vediamo anche presentato da autorità e istituzioni è frutto del modo in cui i tamponi vengono eseguiti, dal loro numero, da come si vanno a cercare i casi. Questo significa che, per dirla in modo molto banale, se semplicemente avessimo adottato quello che sta succedendo in altri paesi europei come Francia, Germania e Regno Unito, in cui i casi vengono comunicati dopo la conferma e non dopo il primo dei due test, avremo già grosso modo un dimezzamento dei casi rispetto a quelli che oggi vediamo scritti sui giornali. Dopodiché c'è anche la grande questione del tampone fatto agli asintomatici, quindi alle persone che non stanno manifestando in forma evidente la malattia, ma ovviamente se si va ad ampliare il campione della popolazione su cui facciamo questi test, qualcuno ogni tanto di positivo lo troviamo e questo potrebbe in qualche modo avere un po' gonfiato i numeri rispetto ad altri paesi. Va detto però che sì, noi abbiamo fatto un numero molto alto di tamponi, ma non così più alto rispetto ad altri paesi, come ad esempio il Regno Unito, che a oggi ha un numero di casi certificati molto inferiore rispetto all'Italia. Grazie Gianluca Dotti, ti chiedo però di restare con noi perché tra poco avremo modo di chiederti intervento su un'altra notizia. Adesso però voglio aprire un'altra piccola pagina dedicata all'allerta per una carenza idrica che c'è nel nostro paese, che potrebbe diventare anche un vero e proprio allarme siccità. Il nostro Enrico Pagliarini è stato nell'area del bacino del Po e ci aggiorna sulle ultime notizie. Le piogge previste nei prossimi giorni non cambieranno purtroppo una situazione compromessa da uno degli inverni più caldi degli ultimi anni. Stiamo entrando nuovamente in emergenza siccità e le preoccupazioni non riguardano solo il bacino del Po, come spiega a Radio 24 Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi che gestiscono le acque per irrigare le campagne. Siamo in una fase di forte preoccupazione in alcune parti del territorio, addirittura in emergenza. La situazione è a macchia di leopardo. Se iniziamo dal sud, abbiamo la Basilicata e la Puglia che lamentano un calo all'interno dei propri bacini di oltre il 50% rispetto agli anni passati. Non andiamo sicuramente meglio in Calabria, dove addirittura stiamo chiedendo lo stato di crisi perché appunto non abbiamo quasi più disponibilità. A macchia di leopardo abbiamo delle criticità in tutto il centro Italia e delle portate anomale, quindi molto basse, del grande fiume, quindi nella pianura padana. Questo preoccupa ancora di più se pensiamo che manca tutto il manto nevoso che anche negli anni passati magari avevamo a disposizione, quindi che andava a rimpinguare un pochino quella che era la situazione attuale. Inoltre, con una stagione che ha fatto registrare dei record rispetto alle temperature, le colture stanno partendo, noi come mondo dei consorzi di bonifica ci siamo trovati davanti alla situazione di dover dare acqua in un periodo assolutamente anomalo, ovvero in questi giorni. Tante sono le azioni da mettere in moto per cercare di limitare questo fenomeno, a partire da grandi o piccoli invasi, il cui piano nazionale non è ancora decollato. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questa è la situazione per quanto riguarda la carenza idrica nelle regioni. Qua eravamo nel bacino del Po, ma la carenza idrica, diciamo l'allarme forse più grave, riguarda in realtà poi alcune regioni del sud, la Basilicata e la Puglia in particolare. Gianluca Dotti è ancora con noi. Ciao Gianluca, ben ritrovato. Rieccoci. Rieccoti. Allora, Gianluca, giornalista scientifico, collaboratore di Wired, per chi si fosse messo in collegamento solo in questo momento. Insomma, è venerdì, abbiamo alle spalle una settimana molto pesante per tutti con questo allarme per il coronavirus. Allora vogliamo in qualche modo anche un po' alleggerire, no? In che modo? C'è una notizia che io mi ci sono imbattuto personalmente ieri, credo un po' in ritardo. Ho visto foto, video di scope postate sui social, in particolare su Facebook, e ho scoperto che c'era questa Broomstick Challenge, una sfida nata, Gianluca, dove? Allora, la sfida in realtà, la vera questione è quando, nel senso sì. che la sfida è nata il 10 febbraio scorso sì. ed è una sfida appunto che consiste, per chi non l'avesse ancora sentita, nel cercare di far stare in piedi una scopa all'interno della propria casa. Ecco, sì, ti fermo subito su un punto, perché tu giustamente hai detto per chi non l'avesse ancora vista o sentita. Io ci sono arrivato ieri, però credo che chi non sta sui social network, per esempio magari la gente di una certa età o chi è un po' più distratto e magari cerca altre cose, al di fuori di quello, credo che non se ne sia proprio parlato. Però questo ci dà la dimensione invece di cosa si muove all'interno dei social, di come ci si muove, di come la gente ragiona e di come si possa cascare in un tranello che nemmeno la NASA, se ho capito bene, è riuscito a spazzare via del tutto. Ma ti ho interrotto. Sì, qui la questione è appunto la velocità con cui poi queste informazioni si propagano, soprattutto in un ambiente come quello della rete, in cui tra l'altro c'è una diatriba in corso sul fatto che effettivamente le notizie false si propaghino più velocemente rispetto a quelle vere. C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, ma a parte questo è innegabile la rapidità con cui si diffondono queste prove, queste sfide, in inglese le chiamano challenge, che sono a volte pure pericolose. Ce ne sono state alcune storiche in cui ad esempio si invitavano le persone a mangiare le pastiglie del detersivo di lavastoviglie o andare in giro bendati. In questo caso, se vogliamo, in questo caso era meno grave perché si trattava di cosa? Siamo molto più tranquilli, forse ci possiamo fare tutto sommato una risata su, perché la notizia era che solo in un particolare giorno, alcuni dicevano per l'inclinazione dell'asse terrestre, altri dicevano per l'allineamento dei pianeti, sì. Fatto sta che solo il 10 febbraio, che poi in Italia è diventato il 26 febbraio, si sarebbe riusciti a far stare perfettamente in verticale una scopa. Una scopa in verticale. E effettivamente la scopa ci stava in verticale, ma non per la questione dell'asse terrestre, credo. La scopa ci sta, ma tutti i giorni in tutti i luoghi della Terra, nel senso che è una questione banalmente di gravità e un oggetto può stare in equilibrio quando la verticale del suo baricentro cade all'interno della base d'appoggio. Quindi, questa è la spiegazione scientifica, però evidentemente è una prova che non tutti fanno tutti i giorni, anzi nessuno. Fatta in quelle condizioni, con questa premessa, sembrava un miracolo, no? Esatto, tanto che sul web si sono moltiplicate le reazioni entusiaste, tutti postavano foto, piccoli video dell'esperimento in cui erano effettivamente riusciti a raggiungere il piccolo successo. Poi la NASA effettivamente è intervenuta, l'ha fatto in modo anche abbastanza ironico, perché semplicemente ha sfruttato i suoi scienziati per fare questa prova e semplicemente l'ha svolta in un giorno diverso rispetto a quello in cui la bufala sosteneva si sarebbe potuto fare in esclusiva l'esperimento. Va bene, grazie Gianluca Dotti, grazie per essere stato con noi e per averci, diciamo, commentato e averci aiutato così a districarci anche in questa notizia. Dunque, le scope stanno in piedi, ma per tutt'altri motivi. Adesso stasera proverò anch'io, ammesso di averci una scopa in casa, non lo so. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Tra poco torniamo con un aggiornamento di un sondaggio importante che riguarda le paure degli italiani per il coronavirus, che vi anticipo sono in calo, sono in diminuzione, c'è meno preoccupazione, anzi il 70% degli intervistati ritiene che si sia esagerato con le informazioni, con l'allarmismo. Tra poco. Effetto Giorno. Queste notizie di oggi: coronavirus, primi casi in Nigeria e Olanda, annullato anche il salone dell'auto di Ginevra. Il capo dello Stato Mattarella ringrazia i medici al lavoro, invita a mantenere l'unità e a non diffondere paure irrazionali. Intanto diminuisce la paura degli italiani verso il coronavirus, lo rivela un sondaggio di YouGov, ne parliamo tra poco. Siria, quasi un milione di profughi in fuga dalla zona di guerra con la Turchia, Erdogan minaccia di farli passare verso l'Europa. I commissari dell'ex Ilva rispondono al sindaco di Taranto che aveva chiesto lo stop alle emissioni inquinanti entro 30 giorni. L'ordinanza, sostengono, è illegittima. Europa League sfida Italia-Spagna agli ottavi. L'Inter troverà il Getafe, la Roma al sorteggio, pesca il Siviglia. 13:35 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori. Quelli che avete sentito sono i titoli di oggi. Vediamo se ci sono delle ultime ore. Non mi pare, ci sono ancora tante notizie per quanto riguarda il coronavirus, i rapporti tra l'Italia e Israele. Conte a Netanyahu, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha detto che è rimasto sorpreso dalla decisione di Israele di bloccare, insomma, l'arrivo degli italiani. L'Italia è il paese verosimilmente più sicuro e affidabile in questo momento, ha detto il presidente del Consiglio Conte. Per quanto riguarda poi l'intervista che abbiamo fatto con Gianluca Dotti sulla differenza dei numeri, sui doppi numeri che sono stati forniti fin qua, i tamponi e i controlli dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi la conferma ufficiale dell'ufficialità, c'è naturalmente tanta agitazione perché questa cosa crea confusione. Qualcuno sostiene che, per esempio, questo ascoltatore dice giustamente: ma perché non trovo più il messaggio? Perché spiegare, facciamo il test due volte, una nelle regioni e l'altra all'Istituto Superiore di Sanità, se poi i dati in sostanza, scrive questo ascoltatore, coincidono, sono uguali, la spesa così si raddoppia. Effettivamente anche questa è un'osservazione giusta. Credo però che ci siano delle procedure che vanno seguite. I tamponi servono, come dire, anche per garantire l'operatività ospedaliera immediata, per capire la situazione che si ha di fronte, poi per certificare il caso al 100% si passa a un controllo successivo dell'Istituto Superiore di Sanità, che però, per tranquillizzarvi, avviene anche a livello territoriale, regionale. Non c'è bisogno di mandare i tamponi a Roma, sono sempre lì, diciamo, a pochi metri di distanza, si passano i dati e poi si fa la conferma. 13:37, il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Ci sono alcune lezioni che questa Italia, sconvolta in un batter di ciglia della storia, si spera imparerà per sempre. Quanto pesa l'apartheid, ad esempio, il razzismo strisciante e conclamato di cui parte degli italiani era portatore e forse lo è ancora, ma i nazionalisti da bar del prima noi, i respingitori di migranti senza se e senza ma, i difensori del cortile di casa come fosse Fort Knox, avranno capito un po' meglio cosa significa stare dall'altra parte, o meglio essere l'altro, cosa si prova a diventare gli untori, gli appestati, i paria da evitare quando il prima noi diventa il prima voi, voi fuori, lontani, a casa vostra. La ridicola corsa degli stati a impedire l'ingresso di italiani o ad obbligarli alla quarantena è reale e brucia il nostro orgoglio, ma è reale. E forse anche da qui, da questa nuova consapevolezza che occorre ripartire per far ripartire tutto il paese. E poi è evidente che l'Italia, con un'economia già priva di anticorpi e dunque più vulnerabile, deve mobilitare il meglio di sé in modo concorde e solidale, e lo farà, siamo certi. Ma è anche vero che senza l'aiuto dell'Europa e dei paesi confratelli la ripartenza diventerà difficile, se non impossibile. L'Europa non è nemica, è la salvezza, e questa è la seconda lezione. Il coronavirus ci cambierà nel profondo, che lo si voglia o no. Di fronte ai grandi drammi della vita non serve disperarsi, piangere o peggio odiare. Serve solo comprendere. Lo diceva Spinoza nel 600, ma sembra oggi. Abbiamo appena cominciato. Coraggio. Ecco noi Daniele Abate di YouGov, società di analisi di mercato e di sondaggi internazionali. Daniele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. Allora, per aggiornare un sondaggio di cui avevamo parlato un paio di settimane fa, forse una decina di giorni fa, a proposito degli umori, delle conoscenze, delle percezioni degli italiani, ma nel mondo, il valore di questo sondaggio è che era proprio riferito al mondo intero, per quanto riguarda il coronavirus, conoscenza e paura. C'è un aggiornamento che riguarda in particolare l'Italia, sembra che sia un po' in diminuzione la paura. Ti chiedo però, così giusto per, velocemente, di ricapitolare quello che emergeva dal sondaggio, giusto come punto di partenza, il sondaggio quello internazionale, se non ricordo male, la paura, diciamo, era maggiore più ci si trovava vicini a quelli che all'epoca era il punto di maggiore contagio, il focolaio dell'epidemia, cioè la Cina. Sì, proprio come dici tu, la percezione di paura era molto correlata a quelli che erano i paesi dove erano avvenuti i primi casi, quindi sostanzialmente in Cina. E questo, diciamo, non c'era di che stupirsi. Venendo invece all'aggiornamento, nel tempo che è trascorso in questi giorni, che cosa avete rilevato per quanto riguarda l'Italia? Allora, abbiamo intervistato gli italiani venerdì e sabato, quindi non appena sono usciti i primi casi in Lombardia, e poi martedì e mercoledì di questa settimana. Quello che vediamo è che il livello di allerta degli italiani rimane costante, però tende a diminuire la percezione di minaccia grave, che passa dal 45 al 33%. Ok, quindi c'è una diminuzione abbastanza significativa, perché 8 punti credo che siano al di là di quello che può essere un errore statistico o, diciamo, un aggiustamento del sondaggio. C'è proprio un cambio di percezione, no? Sì, sembrerebbe di sì. Quindi c'è una diminuzione di percezione di minaccia grave. Ecco, invece, parallelamente a questo, però c'è anche un tema che riguarda, come dire, l'eccesso intanto di informazione, oltre che poi anche una questione di allarmismo vero e proprio, cioè un eccesso di notizie. Quindi, diciamo, una domanda che avete fatto che riguarda direttamente, insomma, noi, la stampa, l'informazione, il giornalismo, giusto? Eh sì, infatti abbiamo chiesto agli italiani se pensano che la quantità di notizie pubblicate e diffuse sia giusta, elevata o troppo elevata, e quasi il 70%, per essere precisi, 67%, pensa che siano state diffuse troppe notizie intorno al coronavirus. Ecco, sì, diciamo, con una battuta si potrebbe dire che, diciamo, parlare male della stampa accomuna un po', mette tutti d'accordo. Questo è solo una battuta, perché poi in realtà c'è dietro un tema molto importante. Diciamo, a nostra, non dico discolpa, ma spiegazione dell'atteggiamento, per quanto mi riguarda, Radio 24, insomma, questo programma, c'erano tante cose da raccontare. C'erano delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, delle regioni, c'era un continuo emergere di notizie da parte di epidemiologi, quindi, diciamo, fare finta di nulla era un po' difficile. Ma insomma, a parte questo, a fronte di tutto questo, però, come sono cambiati i comportamenti, perché avete monitorato anche questo, delle persone, degli italiani? Qui c'è un altro punto interessante. Prima di tutto è vero che gli italiani si sentono meno minacciati, ma stanno mettendo in atto più azioni. Passano dal compiere 5 azioni a circa 8 azioni. E quello che mettono, cioè le azioni che compiono, sono principalmente azioni volte al rispetto delle norme igieniche, quindi lavarsi spesso le mani, usare dei disinfettanti o lavare gli indumenti e in alcuni casi anche gli alimenti, cioè sciacquare gli alimenti con dei disinfettanti, e altre, quindi tutto quello che riguarda le norme igieniche, e dall'altro lato invece tutte azioni volte ad evitare i luoghi di socialità, quindi evitare dei luoghi troppo affollati, evitare il contatto con chi sembra avere raffreddore ed evitare i mezzi di trasporto pubblici. Quindi, diciamo, volendo riassumere, fanno più cose, cercano di stare attenti di più alle norme igieniche e evitano maggiormente i luoghi di socialità. Io ti ringrazio, Daniele Abate di YouGov. Per concludere, grazie per essere stati con noi. Vi ritroveremo tra qualche tempo con il prossimo sondaggio, sicuramente per Radio 24. Per concludere, se ne sarà parlato troppo, ci sarà stato troppo allarmismo, ma questo forse è servito a far cambiare alcuni comportamenti, meglio, credo, delle persone che adesso sanno di più anche come bisogna comportarsi in questa fase. E va bene, così abbiamo trovato il modo anche di salvare il nostro ruolo di informatori eccessivamente allarmanti, forse, però tant'è. Carlo Genta, ciao. Ciao Alessio, ciao a tutti. Abbiamo anche notizia di poco fa. Sì, sorteggi di Europa League. Ieri sia l'Inter che la Roma hanno passato il turno, oggi si beccano due spagnole. Doppio confronto Italia-Spagna con Inter-Getafe e Siviglia-Roma. Questo il prodotto dell'urna, poteva andare meglio ma anche peggio, direbbe Catalano. Un pareggio. Tant'è questi gli accoppiamenti. E poi c'è quell'altro tema connesso a quello di cui tu stavi parlando ora. Non si tratta di fare dell'allarmismo ma di fare della cronaca anche, quindi Juventus-Inter, la partita che tutti stanno aspettando e che verrà vista in tutto il mondo, si giocherà a porte chiuse, salvo che, ultima speranza, del Consiglio dei Ministri, che c'è ancora una possibilità, inverta, cioè il Consiglio dei Ministri in giornata potrebbero a sorpresa decidere di cambiare tutto, ma lo si vede come molto poco probabile, quindi sarà a porte chiuse e senza diretta televisiva in chiaro questa partita, che è tra le più importanti della stagione italiana. Grazie Carlo, tutti argomenti per la puntata di tutti i convocati dopo il giro delle 14. Grazie per essere stato con noi. Noi facciamo una piccola pausa, come sempre torniamo con Giulia Crivelli e la lettura dei giornali internazionali. A tra poco.